Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Ogni lunedì alle ore 22 la Gazza Ladra ruberà del tempo per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra, e della terra. Io vorrei sapere dove è scritto che per gli animali non esiste alcun diritto. E allora, una buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Qui siamo in 2, 4, 6, nel giorno di Pasquetta, la prima trasmissione. Non so se volete dire qualcosa pure voi. Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Noi la Pasqua non la festeggiamo, anzi la festeggiamo alla radio. E anche se è un orario, come dire, inconsueto per parlare di ciò di cui vi parleremo, insomma, come avete anche capito dallo spottino. Qualcuno potrebbe dire sfigati che il giorno di Pasquetta si le radio a quest'ora. Non abbiamo una vita sociale, quindi ci diamo così alla ai pipponi. E niente, allora, questa è la prima di una lunga serie, speriamo. Lunghissima serie, eterna quanto il mondo. Abbiamo fatto scorta di dolciumi e dolcetti per affrontare vegan, l'impegnativa ovviamente. Serata. Vegan, ovviamente. Cioccolato fondente. Extra vergine fondente. No, vabbè, questa diciamo, speriamo che sia la prima di una lunga serie di trasmissioni con tematica la liberazione animale, la liberazione della terra e l'antispecismo in generale. Trasmissioni sia da un punto di vista teorico che pratico, di lotta per dar voce a quelle che sono le lotte in Italia e qualche volta nel mondo. Anzi, quasi più nel mondo che in Italia, possiamo dire purtroppo. E niente, però anche vogliamo affrontare dei temi che ci sembrano importanti anche da un punto di vista più diciamo teorico, perché comunque nel movimento romano, ma anche nel resto d'Italia, magari al nord un po' di più e nel resto d'Europa molto di più, si parla molto poco di antispecismo, di liberazione animale della terra. E però invece ci sembra giusto parlarne, perché appunto è una rotta che ci riguarda molto. Anche perché moltissime di quelle che sono le tematiche che andremo ad affrontare nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, mesi, insomma, si spera il più possibile, come le campagne antivivisezioniste, la questione della predazione, della caccia, degli allevamenti intensivi, sono tematiche che fino adesso, da un punto di vista anche teorico, di visibilità, diciamo, chiamiamola anche mediatica, sono state tipiche di, come dire, il cosiddetto animalismo istituzionale, temi che vorremmo affrontare in maniera diversa, da un punto di vista diverso. E allora, se vogliamo iniziare a parlare di che cos'è l'antispecismo, cos'è? Forse prima dobbiamo... Cos'è? Una volta, guarda, c'è un po' di giorni fa, ho detto una compagna, guarda, parleremo di antispecismo, ascolta di la trasmissione, mi fa, ma perché siete contro la specie, le specie? E quindi, insomma, dobbiamo cercare di capire innanzitutto che cos'è lo specismo e non la specie, ovviamente. Certo. E per parlare di specismo dobbiamo senz'altro, se dobbiamo dargli una definizione, non possiamo non citare Peter Singer, il suo saggio Animal Liberation, un saggio scritto intorno agli anni 70, un saggio che possiamo definire anche superato in larga misura, ma lui è stato il primo a parlare strettamente di specismo. La definizione che gli dava Singer era una sorta di pregiudizio fondato sull'appartenenza di specie, un pregiudizio che porta inevitabilmente all'esclusione degli interessi degli animali non umani, quindi un'esclusione di tipo morale, e strettamente analogo, come possiamo dire, anche a altri tipi di discriminazione tipiche come il razzismo o il sessismo. Secondo Singer, nella sua insomma visione, non sono tanto gli atti ad essere specisti, ma le giustificazioni morali che noi diamo a queste azioni. Quindi specista in qualche modo è l'argomentazione che giustifica l'azione, l'atto, attraverso la negazione degli interessi degli animali non umani. Quindi il movimento animalista, dopo questa, diciamo, questa rivoluzione, questo forte e importante contributo, sviluppa e allarga una sua visione che viene anche, insomma, noi riconosciamo come il comune animalismo. E in questa visione singeriana, che viene allargata, si determina come aspetto positivo, a nostro parere, una nuova riformulazione che pone come punto centrale anche fondamentale una critica non solo all'atto in sé, cioè non solo, scusate, alla giustificazione dell'atto, ma anche all'atto in sé, quindi al comportamento anche dell'individuo, non solo quello, come dire, morale. fallisce però nel considerare lo sfruttamento come un prodotto dello specismo, come una conseguenza. Possiamo quindi dire in qualche modo che lo specismo è una ideologia, l'ideologia del dominio, che ha una doppia natura, una natura ideale da una parte e una natura materiale. L'animalismo, molti, c'è cioè un Marco Maurizio, un teorico antispecista, ha definito questo tipo di animalismo un tipo di animalismo metafisico, di tipo morale, in cui l'aspetto ideale, cioè il considerarsi superiore ad altre specie, diviene la causa cronologica dell'aspetto materiale, come la prassi dello sfruttamento, e riconosce questo un grave errore di tipo logico. E è un'idea fuori dalla storia, fondamentalmente, cioè implica una connaturazione negativa, malvagia dell'essere umano, che porta poi inevitabilmente l'uomo allo sfruttamento perché si sente superiore. Ma l'antispecismo, l'antispecismo di cui noi parliamo, di cui vogliamo parlare, vuole superare questa idea e cercare di capire non solo il perché, ma soprattutto il come nasce veramente lo sfruttamento animale. Quindi riconosciamo in qualche modo un limite non solo nelle pratiche, nella istituzionalizzazione dell'animalismo, ma anche di una certa, esempio, sinistra borghese, ma non solo, impegnata nella difesa di diritti animali. E è proprio questo limite, è quello di non mettere in discussione il sistema capitalista e soprattutto lo sfruttamento dell'uomo anche sull'uomo, come parte integrante dello sfruttamento dell'uomo sull'animale. E quindi possiamo finalmente come dire, affrontare l'antispecismo come un nuovo movimento di tipo movimento che analizza gli eventi dello sfruttamento su una chiave di tipo storico. Cioè non poniamo esclusivamente una giustificazione morale, ma si riconosce negli atti che vengono perpetuati nei confronti degli animali una dimensione non solo esclusivamente individuale, ma sociale nell'insieme delle attività umane nel loro complesso. Quindi teniamo in considerazione la relazione stretta che intercorre fra l'uomo e l'animale in senso storico, non solo emotivo, empatico, di totale indifferenza. E anche questo è importante, ne parleremo della questione della sofferenza animale, è qualcosa di importante, ma vogliamo andare un attimo oltre a questo discorso. La domanda quindi che ci dobbiamo porre in qualche modo è: in quale momento della storia l'uomo ha iniziato a sottomettere le altre specie animali? Prima di magari affrontare questo discorso, cerchiamo, sì, diciamo, mettiamo uno stacchetto musicale. Ovviamente tutta la musica che verrà trasmessa sulle nostre frequenze in questo orario sarà di natura diciamo vegan friendly, sì. Autori insomma sensibili alla questione. Sì, diciamo che abbiamo scelto di mettere musica di autori e autrici che fossero quantomeno vegetariani o vegani, perché comunque per quanto ci riguarda il contributo antispecista è un contributo che riguarda molto anche le scelte individuali, oltre che quelle diciamo politiche di massa, di gruppo eccetera, anche quelle individuali della vita di tutti i giorni. Assolutamente. Quindi. E chi ci mandi, chi ci fa sentire? Mobbi. Ah, proprio rivoluzionario Mobbi. Dice sì. Bella, bella. Take us so far. Broken down car. Like strung out old stars. Playing, talking. Served us so well. diciamo che per continuare su questo, insomma, percorso, questo viaggio nello specismo, dobbiamo necessariamente cercare di capire che cos'è la violenza e che cos'è lo sfruttamento, due concetti che sono strettamente interconnessi fra loro, ma anche molto differenti. È soltanto, diciamo, con lo sfruttamento, abbiamo detto fino adesso, che si pongono le basi dello specismo, e quindi noi consideriamo inferiori gli animali perché li sfruttiamo, non il contrario. Probabilmente ci saranno anche meccanismi psicologici, anche etici, che ci portano a sfruttare gli animali, ma da un punto di vista storico è una giustificazione che l'essere umano ha adottato per perpetuare i suoi, diciamo, crimini, se li possiamo definire così. La violenza, quindi, la possiamo definire come, non so, tutti quegli atti che sono volti a colpire la vulnerabilità di una specie per trarne un vantaggio. E quindi gli attori di questa violenza possono sussistere indipendentemente l'uno dall'altro, indipendentemente ma soprattutto liberamente. E quindi le sorti non sono già scritte. Il classico esempio del leone e la gazzella o dell'uomo primitivo che va a caccia, non è detto che ce la faccia, può farcela, può non farcela, le sorti non sono prestabilite. È fondamentalmente un rapporto di tipo egualitario nelle possibilità. Mentre lo sfruttamento è ben diverso. Sin dall'origine uno dei due attori è totalmente subordinato all'altro, e la stessa esistenza di uno addirittura è finalizzata ai bisogni dell'altro. È qualcosa di veramente, se ci si ferma un attimo a pensare, è qualcosa di terribile. Quindi si forma in qualche modo una gerarchia che è di tipo puramente materiale. Diciamo che è un rapporto schiavistico. È un rapporto schiavistico, assolutamente. È sistematico. Le analogie, non a caso le analogie che troviamo anche con la schiavitù dell'uomo sull'uomo, quando l'uomo comincia a schiavizzare in maniera sistematica altri uomini, li deve necessariamente subordinare ad un livello bestiale. Sono animali, non sono nostri pari, questo è ben chiaro. Però rilacciandoci anche al discorso che facevamo prima, la differenza storica fra l'animalismo e l'antispecismo. Infatti in questa trasmissione noi parliamo non a caso di antispecismo. Che cos'è l'antispecismo? Da questi pochi minuti di introduzione si capisce che l'antispecismo è innanzitutto un approccio radicale di critica alla società e delle basi della società e dei rapporti gerarchici di costrizione, di sottomissione, di schiavitù tra esseri viventi, non facendo in questo differenza tra un animale non umano e un animale umano. È bene sempre ricordare, infatti, che gli uomini sono animali, tanto sono esseri quanto naturali, sono esseri non so. Animali, infatti. E parliamo di antispecismo e non di animalismo. Perché? Perché l'antispecismo è un approccio radicale che appunto mette in critica, mette sotto attacco, diciamo, questo rapporto di schiavitù. L'antispecismo è tuttavia una conquista teorica e pratica, perché antispecismo è sia teoria che prassi, e questo poi lo vedremo anche nelle prossime trasmissioni. Ma l'antispecismo è un approccio teorico appunto radicale ed è una conquista teorica degli ultimi anni, una conquista teorica abbastanza recente, mentre l'animalismo, così come lo intendiamo comunemente, è invece un approccio teorico che ha sicuramente avuto degli effetti sicuramente positivi, perlomeno da un punto di vista introduttivo di certe tematiche, ma è un qualcosa di molto meno recente, di qualcosa che possiamo far risalire almeno all'Ottocento. È infatti due secoli fa che iniziano a nascere, prima in Inghilterra, poi negli altri paesi europei, le varie società di protezione degli animali. Anche in Italia stessa, mi sembra, l'ENPA, no? L'Ente Protezione Animali, venne fondata da Garibaldi, esattamente. Qual è l'aspetto saliente di queste società? L'aspetto saliente di queste società è che non mettono in dubbio il rapporto di sottomissione e di sfruttamento che l'uomo impone all'animale. Si basano unicamente su una sorta molto blanda di empatia, in cui sostanzialmente lo scopo non è tanto quello di impedire lo sfruttamento animale, quanto far sì che questo sfruttamento sia il più morbido possibile. E allora, per esempio, queste società, queste prime enti, chiamiamoli animalisti, si propongono di introdurre metodi di uccisione degli animali, di macellazione il meno possibile cruenti, metodi di allevamento che siano il meno possibile cruenti e via dicendo. È chiaro però che sono delle istanze che non cambiano fondamentalmente il rapporto uomo-animale, perché l'animale continua a essere un oggetto, l'animale continua a essere un come dire, un qualcosa che rimane a disposizione dell'uomo, ma che l'uomo, in virtù della sua superiorità morale, razionale, culturale, ha il dovere. Evoluzionista in alcuni casi, che è ancora peggiore come discorso, no? Esatto, perché comunque l'uomo continua ad avere il diritto dovere di utilizzare, continua ad avere il diritto di utilizzare gli animali a proprio piacimento, e continua ad avere il dovere, chiamiamolo dovere tra virgolette, di trattarli però con umanità. Come vedete, però, il perno rimane sempre l'uomo. Qualcosa comincia a cambiare con un approccio di tipo utilitaristico, come dicevamo prima all'inizio della trasmissione, e cioè sull'onda della filosofia dell'utilitarismo di Bentham, e poi progressivamente preso in considerazione anche da Singer quando scrive Liberazione Animale, che però è basato fondamentalmente sulla capacità di soffrire. Qualsiasi essere vivente che ha capacità di soffrire merita, in quanto tale, una forma, chiamiamola così, di rispetto. In questo caso non siamo ancora all'antispecismo, ma ci stiamo incamminando verso l'antispecismo, perché si comincia a prendere in considerazione gli animali non più come oggetti a disposizione dell'uomo, ma come soggetti che quindi hanno, come dire, una chiamiamola una dignità, chiamiamoli, se vogliamo, diritti, chiamiamole capacità di autodeterminazione, anche se da un certo punto di vista, per quanto questa definizione poi abbia alcuni limiti teorici, ma diamola per buona, basati sulla loro individualità. E così comincia, a partire fondamentalmente dagli anni 70, quello che noi oggi conosciamo come antispecismo, oppure chiamato in altri menti molte volte come animalismo radicale, ecologismo radicale e via dicendo, che è quello un po' di cui, insomma, ci occupiamo noi in questa trasmissione. Da qui nasce anche l'animalismo, quello di, chiamiamolo di base, cioè sciolto da qualsiasi istituzione, sciolto da qualsiasi società protettrice di animali e via dicendo, basato su una struttura per lo più orizzontale, sulla confluenza di singoli individui che, come dire, sviluppano rapporti tra di loro su determinati obiettivi e su un determinato tipo di militanza. E quindi, per esempio, abbiamo le prime campagne in Inghilterra contro la vivisezione, contro gli allevamenti intensivi. Abbiamo, per esempio, sempre in Inghilterra nascono le prime forme di attacco alla pratica della caccia fatte sul posto. Per esempio, a partire dagli anni 70, nelle campagne inglesi si cominciano a sviluppare realtà di singoli attivisti, di militanti locali che interrompono le attività venatorie dei cacciatori frapponendosi fisicamente con i cacciatori. Abbiamo quindi inizia a nascere quello che noi oggi conosciamo come antispecismo. Niente, Mocio, senti, ascolta, che ci fa sentire adesso? Dai. Allora, adesso noi, invece gli ascoltatrici si addormentano, sono le 22, sono tutti imbriachi della Pasquetta. Cioè. Lo so, l'orario è un po' infelice. Allora, diciamo, visto che prima mi hai descrizzato per commesso mobi, adesso invece mi metto. Ci fa sentire. Vi metto un gruppo molto più. Come si chiama? Le Tormenta. Le Tormenta, dai. Che sono, bella, appunto, sono compagni e compagni di Forlì. Sì. Hanno questo gruppo che, diciamo, oltre a fare musica bellissima, sono molto impegnati anche loro come componenti del gruppo. Insomma, anche bene o male tutti noi che siamo qua in studio adesso veniamo da esperienze passate anche locali, territoriali, a Roma, in tutta Italia, di attivismo antispecista, e è bello ogni tanto, no? Cioè abbiamo le nostre colonne sonore privilegiate. Diciamo che rinverdiamo i vecchi tempi. Rinverdiamo i vecchi nostalgia. Tempi. Nostalgia. Vabbè, niente, allora da Forlì i compagni Le Tormenta. Yeah! allora, dopo le note delle tormenta che conciliano il sonno, che conciliano il sonno, sì, è però la musica tipica delle 22 e 21 e 59 secondi. Sì, un piccolo contributo, che l'antispecismo è poi una lotta contro il dominio e contro ogni tipo di gerarchia che si è nei secoli poi riversato contro tutti, diverse categorie definite inferiori, gerarchia di razza, gerarchia di sesso. E a tale proposito volevo appunto ricordare che quando uscì nel 1972 il libro di Mary Wollstonecraft, Rivendicazione del diritto alle donne, fu commentato come rivendicazione del diritto dei bruti, e appunto gli intellettuali del tempo definirono appunto questa lotta una lotta minoritaria, e che se si dovevano concedere i diritti alle donne era come concederli alle bestie, quindi le donne venivano considerate come bestie sempre nella gerarchia. Certo, è la denaturalizzare, no? Anche alcuni uomini, alcune categorie umane allo stato bestiale di animale. Comunque, tornando in qualche modo alla domanda che mi ponevo, vi ponevo prima, cioè in quale momento nella storia dell'uomo l'uomo stesso ha iniziato a schiavizzare, a sottomettere le altre specie animali. Per capire questo punto, secondo me è fondamentale parlare di uomo precivilizzato e di svolta neolitica, cioè del passaggio dall'uomo primitivo che ha vissuto per 200.000 anni, anzi 190.000 anni, in società tendenzialmente egualitarie, a un certo punto si è passato ad adottare un modello di società detta anche società di produzione. Per millenni, abbiamo detto, l'essere umano si è comportato nei confronti degli altri animali come un comune predatore. C'è chi dice magari, ma guarda, no, erano frugiferi, mangiavano alcuni insetti, ma anche assumendo che fosse un predatore a tutti gli effetti, cosa che non c'entra assolutamente nulla, e ci tengo a ribadirlo, con l'attività venatoria di oggi, che si configura completamente al di fuori di un qualsiasi ordine di tipo ecologico. Tra l'altro l'alimentazione degli animali, ma non solo, anche dei stessi vegetali, è una manifestazione di una delega, non di un rapporto, di un'interfaccia diretta fra uomo e animale, quindi un rapporto denaturalizzato. Attività venatoria che non riguarda comunque soltanto la caccia, ma ovviamente anche la pesca, perché penso sia importante ricordarlo, perché nell'immaginario comune il cacciatore è una cosa, il pescatore è un povero Cristo che è bravo a rilassarsi sulla sponda di un fiume e ammazza animali anche lui come cacciatore. Poi fra l'altro anche, anzi ne ammazza, cioè, il doppio, se vogliamo essere onesti. Strettamente sportiva, addirittura da volte la pesca va a sfociare anche nell'allevamento vero e proprio, perché insomma anche se oggi c'è poco da pescare e poco da cacciare. Comunque, detto questo, è un argomento che cercheremo poi di sviluppare e affrontare anche nelle prossime trasmissioni. Comunque, le testimonianze, per continuare il discorso, le testimonianze delle popolazioni che ancora oggi esistono e che presentano dei livelli di riproduzione sociale come noi immaginiamo, non è detto sia così, ma immaginiamo sia avvenuto nelle prime società umane, ci dimostrano in qualche modo come non esiste e non esisteva un pregiudizio di specie. Anzi, spesso e volentieri erano società in cui era prevalente la cultura magica, una cultura magica basata sul mimetismo, sull'identificazione degli animali, sul totemismo stesso. Quindi l'animale veniva addirittura in alcuni casi divinizzato, e il suo sacrificio veniva ritualizzato mediante, insomma, motivazioni che comunque, giustificazioni morali che comunque erano ben lontane da una qualsiasi idea di superiorità di specie. Quindi non esisteva una giustificazione morale specista per giustificare questi atti di uccisione. Possiamo dire quindi che lo specismo in qualche modo inizia quando i processi di domesticazione degli animali e della natura nel suo insieme, quindi il passaggio dell'uomo anche nomade ad una vita sedentaria, quindi il passaggio da una vita di tipo di caccia e raccolta a una di allevamento e agricoltura, viene riconosciuto come la svolta neolitica. E lo sviluppo dell'allevamento e dell'agricoltura, appunto, in termini di produttività, portarono ad uno svilimento della natura ed una sua vera e propria squalificazione, che era subordinata esclusivamente all'interesse dell'uomo. Quindi una visione antropocentrica a tutti gli effetti, denaturalizzata, come dicevo prima. A me non piace molto il termine denaturalizzare. Che vuol dire denaturalizzare? Se l'uomo lo fa, è naturale. È vero, è un termine non corretto, però... Cerco di l'ho utilizzato per far capire che si poneva al di fuori della natura in quanto punto centrale o superiore o esterno. E quindi questi effetti di questo dominio, è solo attraverso gli effetti di questo dominio che noi dobbiamo considerare, questi effetti si esprimono in termini gerarchici. Quindi consideriamo questi effetti, solo considerando questi effetti possiamo spiegare perché l'uomo si pone al di sopra di tutto. Cos'è l'antispecismo? Abbiamo provato a dare fino adesso un tipo di definizione. C'è una definizione che mi piace molto, che ha dato qualcuno, che definisce l'antispecismo come l'esercizio continuo dell'assunzione del punto di vista del più debole e del radicalmente diverso da noi, qualcosa che è esterno, non ci appartiene. Sì, poi per riallacciarmi a questo discorso e anche per proporre a una lettura, perché quello che ci proporremo in questi incontri è anche di commentare dei testi e proporre appunto delle letture a voi che ci ascoltate. E, una lettura recente è stata, una mia lettura recente è stata Ecocidio, che appunto fa un'analisi sia della percezione dell'uomo rispetto all'animale e sia delle giustificazioni che vengono addotte dall'uomo nel corso del tempo per sfruttare l'animale. E, come è stato detto sinora, l'uomo ha da sempre utilizzato l'animale come punto di riferimento per definirsi e per definire la realtà circostante. E infatti possiamo ricordare per esempio che ci sono moltissime metafore o capri che vengono proposte nel corso dei secoli, che hanno sempre come riferimento l'animale. E due animali in particolare sono stati utilizzati dalla notte dei tempi come simboli primi, quali il toro per esempio e la vacca. Il primo simbolo di virilità e di forza generatrice, e la vacca come simbolo di vita e di fertilità. Tra l'altro poi animali che da un punto di vista naturale li conosciamo unicamente perché selezioni poi dell'uomo stesso, cioè certo, in natura certo non sarebbero esistiti. Quindi sì, un ulteriore, come dire, incrocio dell'attività dell'uomo. Sì, animali poi che anticamente venivano comunque venivano definiti come divinità. Infatti abbiamo moltissime divinità, sia vaccine che taurine, in tutte le esperienze religiose occidentali. E comunque sempre questi, per riferirsi in particolare al toro e la vacca, perché poi Ecocidio analizza soprattutto l'industria della carne, soprattutto legata poi alla carne vaccina parla nel microfono perché i microfoni della radio sono un po' allontanano, low cost. Allora il bestiame diventa anche, oltre ad avere questa simbologia religiosa e appunto punto di riferimento per considerare la fertilità e la virilità, viene anche considerato come comincia a essere considerato come una forma di ricchezza ed è la prima forma di ricchezza mobile e mezzo di scambio. E quindi il principio un po', cioè la sacralità dell'animale iniziale viene poi sostituito con quello di produttività di tipo economico, come perché abbiamo visto che appunto anche l'antispecismo è comunque un problema di impostazione anche economica, cioè certo, si basa certo. Su parliamo delle società, la nostra, la società dello sviluppo, della produttività, Ma soprattutto parliamo del fatto che gli animali sono considerati delle merci. Quindi certo, la continua arificazione dell'animale in quanto merce. Sì, e questa mercificazione. E quindi l'attacco, la critica antispecista è innanzitutto una critica al sistema produttivo, politico ed economico, perché lo sfruttamento degli animali è un'attività economica e come tale, se si vuole combatterla, bisogna, come dire, cogliere fino in fondo questo aspetto economico produttivo. Sì, sì, sicuramente, anche perché poi quello che assistiamo oggi è una mercificazione totale dell'animale, che già comunque si instaura col nascere delle civiltà sedentarie. E che adesso hanno appunto questa mercificazione ad assunto dei caratteri spaventosi, perché poi nei tempi attuali c'è proprio il distacco dell'uomo rispetto all'animale che viene prodotto, e quindi il prosciutto, l'hamburger, certo, di cui appunto uno si ciba, non ci si domanda più qual è la fonte, qual è lo sfruttamento che vi è dietro, non si percepisce più tutto. Il dominio della delega, no? Di lasciar fare a qualcun altro il lavoro sporco, così tra non ci pensiamo. L'hamburger è un caso veramente esplificativo, perché l'hamburger che cos'è? L'hamburger è scarto, è un prodotto di scarto. Nell'hamburger trovate i tendini, i nervi degli animali e via dicendo, no? E quello che potremmo, che nelle chiamiamole così, senza idealizzare il passato ovviamente, ma che un tempo veniva chiamata cucina di recupero, però dietro la cucina di recupero prima c'era tutta una socialità, c'era una partecipazione comunitaria della famiglia, o che era chiaramente una famiglia allargata, o del gruppo, o del villaggio, del paese. Pensate per esempio a tutti i piatti di recupero, adesso che siano vegano o no, della cultura italiana. Infatti le nostre nonne sono quelle che hanno più, insomma, a cuore l'esperienza, il problema, insomma. Invece oggi la cucina di recupero, l'hamburger, che cos'è? L'hamburger è il massimo dell'alienazione, è quello, sì, che per esempio viene chiamato, pensate ai fast food, no? Sono i cosiddetti non luoghi di cui parlano alcuni sociologi, cioè ci sono posti, certo, che non hanno personalità, non hanno identità e che servono, che cosa? Un prodotto di scarto che non è più cucina di recupero intesa come momento di incontro sociale, ma invece è un momento di solitudine a tutti gli effetti, un momento di solitudine che parallelamente da una parte è l'apice dello sfruttamento animale e dall'altra è l'apice inconsapevole dello sfruttamento umano, cioè lo specchio della miseria umana della società moderna. Sì, è un altro elemento che appunto io non conoscevo, che ho scoperto con questa lettura, è che il primo esempio di catena di montaggio e i primi esperimenti rispetto a appunto le innovazioni industriali furono fatti nei macelli, nella produzione appunto della carne. Sì, infatti non so se magari un giorno magari faremo anche una trasmissione pure sul linguaggio. Mi veniva di pensare il fatto che si dica capi di bestiame, per esempio. Sì. Capi. Sono capi di bestiame. Certo. Ma io, guarda, mi volevo riallacciare a quanto ho detto. Senti, ma voglio mandare una canzone magari. Sì, vabbè, dai, che ci fa ascoltare? E questa volta, vabbè. Dai, un po' facci zompare, qualcosa di loretano. Qualcosa di allegro. La picella. No, vabbè, sto scherzando. Chiaramente, visto che prima abbiamo messo un po' della musica un po' potente, adesso mettiamo un po' la musica un po' questo, da fricchettone. Questo lo conosco. Guarda, facciamo così: gli ascoltatori che ci chiamano, ci dicono almeno una ventina di ortaggi e frutta citata in questa canzone, gli regaliamo un abbraccio di gruppo. Vabbè, allora questo è Wami It, Maccabi e... e dai. E dai. Salamata. Aital, we aital and a vegan, we vegan. I and I eat from the earth, I need the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Then I realize I eat a very wide variety. Listen to Maccabee. Yo, how when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan, man. How when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, nah, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, nah, no head. Nothing with no lip, no ears, no tongue, nah, no leg. Prefer fruit and vegetables instead. Me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food is me medicine. When me tell people that me no eat them, they think. They look at me and scratch them chin and start wondering. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me eat. You want to hear what me eat? Yo, I eat callaloo, ackee, sweet potato, yam, banana, and tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, butter, bean, and cocoa, courgette, millet, plantain, rice and peas and pumpkin, mango, dates and guava, chickpeas and cassava, Brussels sprouts and cauliflower, onion, fennel and cucumber, plum, pear and papaya, aubergine and saya, lime, lentils and quinoa, almond bread and almond flour, watercress and okra, tofu and sweet pepper, couscous and carrot, broccoli and coconut, peaches, apples, apricot, red fruit, jackfruit, soursop, pistachios, cashews and almonds, walnut, peanut, also pecan, sesame seeds, sunflower, lemon, orange, pineapple and melon, bongo, wheat and garlic, kiwi, corn and turnip, pacho and pomegranate, hijiki and rocket berries, cherries and strawberries, peach, grapefruit and celery. You see the meat's not necessary. We tell them, say, how will me eat them? I wonder where me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, nah, no meat now. How will me eat them? I wonder where me yam. When me tell them, say, that I'm a vegan, man. How will me eat them? I wonder where me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, nah, no meat now. How will me eat them? I wonder where me yam. When me tell them, say, that I'm a vegan. Hey, look how me big and me say, look how me strong. Some people can't believe that me a vegetarian. If you want a healthy body, check the real Rasta man. Cause Rasta man will tell you about the right nutrition. Me get me calcium, me sodium, me get potassium. Me get me zinc, me get me iron and me magnesium. Instead of yam, the fish me yam, what the fish yam. Like the kelp and Irish monster growing at the ocean. Me get me proteins and me minerals. Me get me calorie, the vitamins A, the B, the C, the D, the E, the F, the G. Essential fatty acid like the omega 3. Me get me fiber and me carbohydrates in my body. Don't forget your water, drink a few glass a day. The toxins in your body, just flush them away. Some of the things you eat, stop in your body and decay. When it come to food, I don't play. We tell them, say, I when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say, that I'm a vegan, man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say, that I'm a vegan. A lot of people would have stopped eating meat if they had to kill the animal before they could have eat. Look on the way the animal then get treat. Unsanitary condition where some of them keep it. We're supposed to eat the meat, we would have sharp teeth. You wouldn't need a knife and a fork, you know, see. You can't eat it raw, you have to cook it complete. And put on vegetable seasoning to make it taste sweet. How will me eat them? I wonder when me eat. E allora sfumiamo così per far notare che tu stai mangiando una gelatina. No, assolutamente. E vabbè, appunto questa canzone che non si dica che mettiamo solo musica punk. Assolutamente. Comunque io volevo un attimo riallacciarmi al discorso che stavamo facendo prima delle società, anche del capitale. Diciamo che il dominio in cui noi oggi viviamo manifesta, in particolare il dominio del capitale, manifesta la sua natura oppressiva in termini totalmente brutale e di forte disparità. E quindi, come evoluzione delle società di classe, il capitalismo segna sicuramente oggi un punto di non ritorno rispetto magari a precedentemente alle società medievali, dei latifondisti o quelle del mercantilismo. Siamo in una, insomma, una situazione di forti contraddizioni interne, di forte antagonismo interno, che può inevitabilmente proseguire solo unicamente, se non in barbarie ancora peggiori di quelle che abbiamo sperimentato fino ad oggi. In questa prospettiva, che mi sembra che sia condivisa un po' da tutti e tutte, almeno da chi ascolta questa radio, l'oppressione degli animali diventa un punto centrale, se pensiamo che poi è sulla loro pelle che si basa gran parte dell'industria del profitto. Pensiamo alle multinazionali, non solo del farmaco, del benessere, anche della cosmetica, ma anche quelle, insomma, degli allevamenti intensivi. La natura è il materiale a disposizione dell'uomo per lo sfruttamento. Quindi si può trarre un profitto da loro e gli animali diventano cose, vengono reificate. E gli uomini diventano schiavi, che considerati non a caso al pari degli animali, come diciamo prima. E non sono neanche gli uomini come categoria di specie, ma l'elite degli uomini, alcuni uomini all'interno, che hanno preparato con la nascita delle società di classe, delle società gerarchizzate, il terreno per l'affermazione di una presunta superiorità spirituale dell'uomo, e come ho detto prima, in realtà di alcuni uomini. Questo mi sembra un punto abbastanza centrale della questione. Sì, sì, e poi comunque diciamo la situazione attuale è legata anche a tutte le giustificazioni che le varie religioni si sono date nel corso del tempo per appunto giustificare il dominio sugli animali. Dato che comunque l'uomo ha sempre compreso che gli animali non erano troppo differenti da lui, per appunto liberarsi dal senso di colpa di cibarsi di altri animali, le prime culture carnivore avevano sviluppato degli atti rituali che per esempio consistevano nell'invocare il perdono dell'animale, del raccogliere e seppellire le loro ossa. Questo parliamo però delle epoche molto antiche. Tra l'altro è una caratteristica che è stata anche attribuita non solo all'Homo sapiens, ma anche ad altri tipi di ominidi, come l'uomo di Neanderthal. Si è scoperto anzi che era propenso a questo tipo di sensibilità. Certo. Quindi, poi, tra l'altro noi insomma siamo una specie, l'Homo sapiens, che ha convissuto per centinaia di migliaia di anni anche con altre specie di ominidi. Si pensa che erano 5 le specie più o meno che hanno convissuto per molti anni, e noi li abbiamo sterminate fondamentalmente, si sono estinte per la brutalità dell'Homo sapiens. Certo, c'è qualcosa anche probabilmente nella natura, nella nostra natura intesa più che nella nostra natura, nella nostra razionalità. Abbiamo molta razionalità e quindi non sempre, quindi la usiamo nel migliore modo, e questo è uno dei casi, insomma, sì, evoluzionista. E poi la razionalità anche, cioè, diciamo, in senso negativo ha creato dei sistemi di dominio filosofici, religiosi, per esempio con l'ebraismo si fa dell'uomo il dominatore della terra, che poi appunto si riversa poi nel cristianesimo, nelle altre religioni monoteiste, e così liberandolo dal senso di colpa. Ancora di più ha fatto l'illuminismo, che ha giustificato biologicamente l'utilitarismo e quindi lo sfruttamento dell'animale, e il darwinismo sociale, che ha affermato che lo scopo dell'evoluzione è promuovere la sopravvivenza del più adatto all'evoluzione, cioè l'uomo, giustificando la sua sopraffazione sugli altri animali. E infine l'uomo moderno ha trovato un'altra soluzione: erigere delle barriere che lo separano dall'animale di cui si nutre, come abbiamo detto che è il caso della produzione industriale, che un emblema di questo sono per esempio gli hamburger, che rispondono poi a una determinata esigenza di parcellizzazione e rientrano nel mito della velocità dei tempi attuali. Certo, ma poi rilacciandomi a quello che dicevi prima, è paradossale. Parlavamo della razionalità, come dire, la natura dell'uomo, però è paradossale perché è soltanto all'interno delle società di derivazione neolitica, le società dell'alienazione, che è stato possibile però mettere in discussione la violenza in ogni sua forma. Storicamente pensiamo anche alle prime forme religiose, perché in quel modo si esprimeva anche un sentire politico, quale il buddismo, il giantinismo, insomma. Jainismo, mi correggono. Quindi queste critiche sono nate come una conseguenza e come una risposta all'alienazione stessa. È paradossale, ma è così. Senza rischiare di diventare insomma schizofrenici, però volevo un attimo anche ricollegarmi a quello di cui parlavamo prima, sempre dell'uomo primitivo e del neolitico. Bisogna riconoscere che su questo processo, cioè lo sfruttamento dello specismo, che non, abbiamo detto non è totalmente intrinseco alla natura stessa dell'uomo, l'empatizzazione della sofferenza non deve quindi portare a trovare una via d'uscita in teorie come l'estinzionismo, come la negazione dell'uomo di per sé. L'analisi dello sfruttamento, dobbiamo riconoscere che per primi a fare questo tipo di analisi negli anni 70 sono state alcune correnti politiche di matrice anarchica, conosciute anche come il primitivismo. Molti teorici come Zerzan, Kandinsky hanno contribuito moltissimo alla discussione, però hanno, come dire, hanno in qualche modo, almeno a mio parere, semplificato un po' la questione, auspicando un ritorno alle società primitive. Società primitive che noi fino adesso abbiamo detto che sono state tendenzialmente egualitarie. Già nelle società come dire, non civilizzate esistevano i germi del sessismo, del razzismo, dello specismo, della violenza, ma non erano fondamentalmente, come dire, non erano strutturate socialmente, ecco, erano tendenzialmente egualitarie ma non di fatto, e quindi l'organizzazione sociale primitiva implicava comunque la violenza. E in qualche modo io penso che bisogna accelerare il processo che stiamo anche noi cercando di portare avanti con l'antispecismo, per la quale cerchiamo di progettare una società diversa, alternativa, che si può spingere oltre al dominio dell'uomo sull'animale, e che poi non significa assolutamente accettare il concetto del progresso a tutti i costi, dello scientismo, ma semplicemente proiettarsi verso nuove prospettive, ecco, questo mi sembra chiaro. E un altro punto che, insomma, abbiamo parlato per un bel po', sono tre quarti d'ora, che mi sembra maturo poterlo dire, è che l'antispecismo, quindi, è innegabile, è una lotta di tutte e di tutti, è una lotta che riguarda veramente tutti e non solo chi empatizza con gli animali in un senso, come dire, empatico, emotivo. E le società di sfruttamento come la nostra, come quelle che ci sono state da 10.000 anni circa ad oggi, sono legate strettamente allo sfruttamento animale, cioè legano strettamente lo sfruttamento animale a quello umano. Le società che dominano la natura sono le stesse che sviluppano le gerarchie di classe al loro interno, e in cui si comincia poi a costituire una differenziazione interna tra gli esseri umani. La nascita delle classi privilegiate che vivono del lavoro altrui, ad esempio, anche da un punto di vista non solo economico ma simbolico, cioè la divinizzazione dell'uomo. L'umano da non umano, cioè gli schiavi non sono umani, ma bestie, abbiamo detto più volte, ma non solo, l'animale che veniva divinizzato gli viene anche tolta questa sua diciamo natura culturale da parte dell'uomo e viene attribuita ad alcune classi sociali umane, alcune elite. Una volta potevano essere gli stregoni, poi sono stati i preti, poi la latifondisti, oggi sono coloro che detengono il potere economico, cioè. Parliamoci chiaro, lo sfruttamento di oggi non è l'economia virtuale della borsa, cioè chi detiene il potere sono persone con nome e cognomi che hanno un indirizzo, che sappiamo chi sono, cioè non è un nemico astratto, non è un nemico astratto. Tra l'altro questo è un discorso che adesso accenniamo e basta al volo perché sarebbe lunghissimo, ma nell'economia di oggi si basa sulla concatenazione delle corporation, ovvero sia in sintesi la grande azienda che produce computer, anche quote del grande allevamento nordamericano che uccide miliardi di polli e viceversa. Quindi comunque sia lo sfruttamento, l'economia dello sfruttamento animale e della terra è pienamente integrata all'interno del capitalismo dell'economia mondiale, insomma, nonché anche della speculazione finanziaria. Infatti l'oppressione umana si può sviluppare solo attraverso l'asservimento della natura, senza la quale poi non sarebbe stato possibile sviluppare forme di gerarchizzazione di classe, quindi senza questa piramide sociale non ci sarebbe neanche stato lo specismo stesso. Sono processi che sono legati e dipendenti e non sono il frutto di contingenza e casualità, ma sono connessi storicamente, questo è importante. Vabbè, io direi mettiamo un altro pezzo e poi abbiamo ancora un sacco di cose da dire, ma il tempo stringe. Accorceremo. Però intanto arrivano le telefonate di insomma, persone compiaciute della trasmissione. Ah vabbè, presentiamo un attimo il brano. Il brano è Mariposa di Futuro Vegapop, riferito appunto a scelta coraggiosa. Una scelta coraggiosa a quello che è diciamo l'effetto farfalla, che è l'esempio più famoso della cosiddetta teoria del caos. E quindi vabbè, niente, Mariposa. Mariposa che vuela junto a mí, trae colores. Puede ser. ci è arrivata una telefonata interessante che poneva al punto del darwinismo. Si sente? Sì, si sente. Sì, okay, si sente. Okay. No, noi abbiamo parlato di darwinismo sociale proprio in termini negativi, proprio come quella visione che è fortemente finalistica in termini evoluzionistici, cioè secondo la quale l'evoluzione procede per dei passi, degli adattamenti che rispondono a necessità evoluzionistiche. È un falso che anche a livello accademico si è tentato di fare negli ultimi anni. Sono degli autori come Stefan Jay Gould, molto interessanti, che parlano della teoria degli equilibri punteggiati, insomma negano questa natura finalistica della natura nell'evoluzione. È un discorso più complesso, magari cercheremo di affrontarlo anche nelle prossime trasmissioni. Comunque volevo puntualizzare questo, anzi, che insomma, non siamo assolutamente affini a nessuna idea che storicamente ha portato poi alla nascita del razzismo e di forme discriminatorie ben peggiori. Certo. Okay, a posto. Adesso che ci avviciniamo alla parte finale della trasmissione... Sì, allora, diciamo che questo contributo ci è arrivato... per varie fonti, nel senso che un'altra compagna della radio ce l'ha segnalato da un blog che è Femminismo a Sud, che in realtà l'ha preso da un altro blog che è quello di Sdrammaturgo, e quindi niente, volevamo leggere uno stralcio di questo scritto che è abbastanza divertente, però non credo di essere io la persona più adatta a leggere perché mi impappino facilmente, quindi se qualcuno mi vuole supportare, ok, io casomai, sì, vai, vieni te. La cultura serve all'imbecille per legittimare intellettualmente la propria imbecillità. Quando si parla di violenza sugli animali, i suoi più strenui difensori sono quelli più istruiti, specialmente se progressisti. Con i mezzi dialettici e la protervia forniti loro da lauree e letture, costoro fanno puntualmente appello a chissà quali principi filosofici per giustificare la propria brama di pancetta. Il bifolco ha molta più onestà intellettuale. Lui, almeno con un po' di senso della dignità, ti dice nudo e crudo: a me la salsiccia mi piacciono, col cazzo che smetto di magnalle, chi se ne frega da animali. L'intellettuale progressista no. Lui è di sinistra, lui ha una coscienza critica e un senso etico. A lui stanno a cuore le disparità sociali, i problemi ambientali, quindi non potrà mai ammettere il suo egoismo. Attraverso acrobatici e sofisticati eurismi accademici tenterà di convincerti, e soprattutto di convincersi, che lui non continua a mangiare pagliata soltanto perché gli piace. No, lui mangia pagliata per un ideale. L'intellettuale farebbe di tutto per difendere le sue grigliate di pesce, conservando la propria illusione di superiorità etico-intellettivo-culturale. Ti dirà che per noi è necessario mangiare animali perché siamo onnivori. Gli dici: guarda, no, non siamo onnivori, bensì siamo frugivori adattabili come la maggior parte dei primati. Perché sì, perché nonostante il nostro cervello è in grado di creare un microchip, siamo nient'altro che primati. Ricercatori universitari, geniali artisti, dotti scienziati, uomini in carriera, siamo tutti dei primati. Tanta fatica, tanto studio e rimanete ugualmente degli oranghi spelacchiati, nati senza ragione su un sassolino buttato in un angolo sperduto a caso dell'universo, in espansione verso il Big Crunch. Duro da andare giù, ma fatevene una ragione, come me la sono fatta io. Siamo scimmie con il pollice opponibile e neanche tra le meglio riuscite. Che poi questi qua comprano la bistecca al supermercato, vanno a casa, la consumano al tepore di un camino davanti alla televisione e si sentono simili a un leone, a un puma o a un giaguaro. Immagini il risentimento di un leopardo. Ehi, così non vale, io mi faccio un culo così per un pezzo di carne a settimana. Allora l'intellettuale ti accuserà di sentirti migliore mentre in realtà sei egoista quanto lui, perché? E allora le piante? Ma sta fingendo l'intellettuale, perché lo sa benissimo anche lui che esistono tre regni biologici ben distinti: minerale, vegetale, animale. E che dunque dire, che differenza c'è tra un coniglio e una carota? È come dire, che differenza c'è tra la zucchina e la ghiaia? O ancora, che differenza c'è tra mio zio e uno scoglio? A meno che lui non sbucci il coniglio e accarezzi la carota, ovvio. Magari gli rispondi pure che la stragrande maggioranza dei vegetali viene coltivata per foraggiare gli allevamenti e che quindi, smettendo di mangiare prodotti di origine animale, ne beneficiano anche le piante. Ma è la logica alla base della sua osservazione ad essere quantomeno pirotecnica. Egli infatti ti sta praticamente dicendo: visto che qualche essere vivente lo dobbiamo uccidere, tanto vale ucciderli tutti. Che è un po' come dire: visto che per rifare il bagno devo buttare giù un tramezzo, tanto vale che demolisco la casa. L'impatto zero non esiste. Il solo fatto di venire al mondo di un individuo di qualsiasi specie comporta il danneggiamento e la distruzione di altri e di parte dell'habitat. Ma ho sempre reputato assodata la saggezza di limitare i danni. E adesso, per chiudere, vorremmo, dopo un lungo, come dire, dibattito teorico, vorremmo parlare anche un po' di, come dire, di realtà quotidiana, di pratica. Sì, Innanzitutto, innanzitutto perché comunque sia noi, l'antispecismo è teoria e va benissimo, ma l'antispecismo è anche pratica. L'antispecismo è anche opposizione sul territorio a tutto ciò che sfrutta gli animali ed è combattimento di tutto quello che sfrutta gli animali, perché in fondo se il fascismo non è mai finito e continua ai giorni nostri, non è finita neanche la resistenza. Vicino a ognuno di noi ci sono luoghi di tortura, di sevizia, di prigionia degli animali, di sfruttamento, di uccisione, ma vicino a ognuno di noi ci sono persone che combattono realmente queste pratiche, che tentano di opporsi, e se non riescono a eliminarle perlomeno provano a salvare il numero maggiore possibile di animali. Questo succede in tutto il mondo, succede in Italia, succede in Europa, succede negli Stati Uniti, succede nell'America del Sud, dove soprattutto in alcuni paesi come Messico, Cile, Argentina, anche la Bolivia, dove il Brasile, dove è molto in espansione il movimento antispecista e di liberazione animale e della terra. Vorremmo citarvi qualche azione così che è successa nel mondo, dove sono stati salvati alcuni animali, dove sono stati portati via dai luoghi di tortura. In Croazia il 31 gennaio 2012 alcuni attivisti anonimi entrano in un allevamento di tonni a largo delle coste croate, tagliano le reti e liberano un numero imprecisato di animali che adesso potrà vivere chiaramente nel mare libero senza essere più imprigionato e ucciso. Il 5 febbraio del 2012 in Cile 9 galline vengono portate via da un allevamento intensivo. Il 27 febbraio nel Regno Unito 2 maialini vengono liberati da un allevamento di maiali intensivo nelle Midlands in Inghilterra, in solidarietà con 2 prigionieri animalisti, e la questione dei prigionieri la toccheremo poi nelle prossime trasmissioni. Il 2 marzo 11 conigli vengono liberati da un allevamento intensivo in Spagna, nei pressi di Barcellona. Pochi giorni dopo, il 6 marzo, alcuni visoni vengono liberati in Svezia nell'allevamento di visoni per pellicce di Skyberga, e a parte il numero di animali liberati, gli attivisti distruggono i cartellini di identificazione. Poi quando parleremo dell'allevamento di visone e dell'industria della pelliccia spiegheremo perché distruggere portare via cartellini di identificazione di visoni è un danno molto grande per l'industria della pelliccia. Il 12 marzo viene pubblicato su internet un resoconto di una liberazione di polli, di galline, di una trentina di galline che erano imprigionate nello stabulario della facoltà di agraria di Ozzano Emilia in provincia di Bologna. Il 16 marzo decine di fagiani vengono liberati da un allevamento di ripopolamento per la caccia negli Stati Uniti. E il 27 marzo in Italia a Venegono in provincia di Varese viene liberato un cucciolo di cane che veniva probabilmente tenuta a catena, imprigionata per la riproduzione e quindi per essere sfruttata. Il 6 aprile 2 galline vengono liberate da un allevamento intensivo in Italia. Il 7 aprile 9 galline vengono liberate da 2 allevamenti, uno in Oregon e uno nello stato di Washington negli Stati Uniti. Queste sono piccole azioni di resistenza, di opposizione, sono piccole azioni, piccole grandi azioni che però negli anni hanno portato alla liberazione di milioni di animali e a un grosso danno economico e anche d'immagine per chi sfrutta gli animali, laboratori, allevamenti, negozi e via dicendo. Sì, diciamo che poi vai. Sì, no, io no, non volevo entrare adesso in questa questione, volevo semplicemente lanciare un appuntamento. I ragazzi del tratto riciclo del Volturno Occupato, Cineteatro Volturno Occupato, stanno organizzando un laboratorio di cucina vegan che in realtà per adesso prevede 4 incontri che ci saranno dal 12 aprile fino al 3 maggio di giovedì dalle ore 18 e che prevedono appunto laboratori di cucina vegan, in particolare il 12-4 latte di soia e tofu, il 19-6 seitan, il 26 aprile pasticceria vegana e il 3 maggio panificazione con lievito madre. E ecco, per lanciare anche questi appuntamenti, perché ovviamente anche sottoscrizione libera. E, per lanciare questi appuntamenti, perché ovviamente un cambiamento passa dalle pratiche quotidiane, e quindi sicuramente la dieta vegan è una dieta cruelty free e un primo passo anche di autocoscienza verso la liberazione animale. Però magari per chi non lo sa spieghiamo che cos'è una cucina vegan, magari sì. Qualcuno può essere che non lo sa. La cucina vegan è una cucina, è un modo di alimentarsi e in generale di vivere non utilizzando nessun prodotto derivante dallo sfruttamento di animali, il che vuol dire essenzialmente non finanziare le industrie o le attività economiche che sfruttano animali. Questo vuol dire non mangiare carne, non mangiare pesce, non mangiare derivati animali, uova, latte, miele, formaggi e via dicendo. Prodotti dello sfruttamento, esatto. Dirci, nel senso non è che non è una questione dietetica né ideologica, è politica, è diverso. Né salutista, né soprattutto. Salutista. Non salutista. Lo può essere per molti, per alcuni, non è quello il punto poi fondamentalmente. Però non è l'approccio che non è il nostro approccio, non è il nostro approccio, quello che proponiamo. E poi sicuramente, oltre appunto ai prodotti che ci dava Arnasca alimentari se, diciamo che ci stanno anche tutta una serie di prodotti che, anche se non contengono diciamo ingredienti di tipo animale o di derivazione animale, sono comunque prodotti che magari sono testati sugli animali. C'è tutto un discorso pure su magari che ne so sì. Avremo le sigarette modo... le sì. Birre poi vabbè, per quanto riguarda in particolare poi i prodotti estati sugli animali approfondiremo in un appuntamento specifico sulla sperimentazione, ma lo diciamo tra poco, ma andiamo una canzone e poi ripartiamo, tanto ci allarghiamo 5 minuti che la trasmissione dopo di noi non c'è niente intorno a noi. Questo pezzo è molto, molto notturno. Beh, piace. Quindi vi teniamo inchiodati fino a domattina all'alba. Ma secondo me le persone hanno spento la radio da un pezzo. Quando hanno sentito che parlavi anche penso tu. Sarà la prima volta che avranno nostalgia del compagno automatico. No, invece devo dire che abbiamo ricevuto parecchie di telefonate anche di persone che volevano intervenire. Quindi casomai le prossime volte possiamo pure microfoni pensare aperti, di aprire un po' i microfoni. Nei limiti del tempo, perché comunque siamo chiacchieroni. E allora questi sono Universal Pop Lab e la canzone è Vampire in You. Tastes so good, I can't give it up. Tasteful flesh means they're out of luck. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Rescue fangs, no tissue for the life served on our plate. Slice it up and again. Let the funeral begin. From the cage to the plate, there blood on your. Fire. torniamo in diretta con questa canzone davvero notturna. Ecco, squilla il telefono, ma non possiamo rispondere ora. E quindi chi sta chiamando aspettasse 5 minuti. Come vuoi rispondere tu? Va bene. Noi rispondiamo a tutti. E niente, così giungiamo al termine di questa trasmissione che non abbiamo ancora detto come si chiama. E quindi lo diciamo, come si chiama questa trasmissione? È un nome molto sofferto, abbiamo deciso di chiamarla Radio Possum. Una scelta combattuta, Radio Possum. E lasciamo anche un contatto che... Sì, allora, la mailing list però si chiama col nome vecchio della trasmissione, ossia quello che aveva fino a 5 minuti fa. Siamo una trasmissione che ha avuto il cambiamento di nome più rapido. Siamo in continua evoluzione. Eclettici, ma noi siamo in continua, vero, siamo dinamici. Vai. Sì. Ci chiedevano il contatto di questo corso di cucina vegana, che io ho detto soltanto appunto che era al Cineteatro Volturno Occupato, che si trova a via Volturno 37, e il sito è volturno.noblogs.org. Perfetto, lasciamo anche allora il contatto invece nostro. Allora, il contatto nostro al quale ci potete scrivere, e poi eventualmente se vi va pure discutere con noi, visto che abbiamo deciso di portare avanti una linea di discussione anche un po' allargata per quanto riguarda questa trasmissione, che poi materialmente facciamo noi, però comunque ci interessano i contributi di tutti e tutte. E l'email alla quale potete scrivere è lagazzaladra@inventati.org. Quindi lagazzaladra@inventati.org. L'ho detto due volte. La prima volta mi sembrava di aver detto la gazzalatra, non aveva senso. Però vabbè, se mi guardate così l'avevo detto giusto. E niente. Prossimo appuntamento lunedì prossimo, appunto. Non mi ricordo che data è, ma insomma è lunedì comunque. Sempre lunedì, ore 22. Oggi è il 9, ore 22. Quindi immagino sia il 16. E parleremo di... Sì, dovrebbe essere il 16, beh, adesso ve lo confermiamo. Comunque di lunedì ce n'è uno la settimana prossima, per fortuna. Non si sa mai. Sì, lunedì 16. E parleremo di caccia e soprattutto parleremo di bracconaggio, con intervistando, diciamo così, avendo in collegamento telefonico attivisti sul campo, nello specifico probabilmente un ragazzo che in questo momento è a Cipro per un campo antibracconaggio. Parliamo di bracconaggio non a caso perché è primavera, è il tempo di migrazione degli uccelli, è il tempo in cui in tutte le isole d'Europa, da quelle italiane come Ponza, Ischia, l'isola del Giglio, a quelle europee come per esempio Cipro e Malta, ogni giorno milioni di uccelli vengono tirati giù a fucilate, finiscono nelle reti, nelle trappole a vischio, nelle trappole di metallo, e muoiono. Tutto questo non per un'esigenza di sopravvivenza, come forse poteva essere 500 anni fa, 1000 anni fa di chi lo praticava, ma semplicemente per tradizioni culturali, oppure semplicemente per ragioni economiche. Poi questi uccelli vengono spellati, spiumati e rivenduti ai ristoranti con un discreto, buoni margini di profitto ci guadagna dietro questo. Poi ovviamente parleremo anche di predazione, del ruolo ecologico della predazione. Mi sembra interessante continuare comunque il discorso. Andiamo leggeri, vabbè, dai. L'ultima cosa, insomma, gli ascoltatori e le ascoltatrici che gli piace la ciccia, a maggior ragione. L'ultima cosa al volo, il senso di questa puntata iniziale: l'antispecismo, sfruttamento dell'uomo, sfruttamento dell'animale. Parleremo di caccia. Vi lasciamo con una piccola così notizia: la provincia italiana dove si caccia di più, dove sono più diffuse le armi da fuoco e dove è più alto l'incidenza di cacciatori ufficialmente registrati, perché poi ci sono anche i cacciatori non registrati, cioè i bracconieri, è Brescia, è il bresciano, e non a caso il bresciano è per definizione in Italia la provincia dove si producono armi non soltanto per la caccia, ma armi anche per l'esercito, armi per o componenti di armi, di carri armati e via dicendo. Quindi insomma, come vedete, perché anche perché poi l'industria è la stessa, le armi che vengono l'industria è la stessa, sia le armi, cioè, per la caccia, che non ci fanno il tiro a piattello, insomma, con le armi. No, abbiamo visto. Anche perché l'Italia è uno dei maggiori produttori di mine antiuomo, lo sappiamo, e insomma, sono le stesse anche industrie i lacrimogeni, anche i lacrimogeni, storia, certo. Ci ricordiamo, noi siamo uno dei pochi paesi. Però non è vero, perché insomma, dai, gli italiani si sono amati nel mondo pizza, mandolino, spaghetti, tarantella. E mafia. E vabbè, allora aspetta, prima bunga, di bunga. E bunga bunga non manca mai. Vabbè, abbiamo raggiunto il trash per stasera. giusto per concludere, quello che vi diamo un pochino le fonti da cui abbiamo preso spunto, certo, questa sera, diciamo tutto il discorso sull'antispecismo che approcciavi tu. Sì, vi rimando a un link internet che è liberazioni.org, un'associazione di Vicenza che lavora molto su questo, sia attraverso internet che attraverso una rivista, si chiama Liberazioni, ripeto, liberazioni.org. Sì, per il libro Ecocidio di Rifkin, basta. Diciamo nient'altro. Nient'altro. Per un'analisi storica dello sviluppo dall'animalismo protezionista all'antispecismo liberazionista, diciamo così, è molto importante, secondo me, a mio parere, secondo noi è molto utile i contributi di Martin Balluck, che è un attivista austriaco che è stato anche, tra l'altro, è stato anche in prigione, ha avuto dei problemi legali, diciamo, ha subito un'opera di repressione. Per chi vuole rimanere aggiornato su tutte le attività, diciamo, su tutte le azioni in difesa degli animali di azione diretta, c'è un sito in inglese che riporta queste azioni, che si chiama directaction.info. Sì, e poi invece per quanto riguarda il contributo, così anche abbastanza divertente, di sdrammaturgo, i link che vi segnaliamo sono quelli di, ovviamente, Femminismo Sud, che è un blog molto interessante perché, oltre ad essere un blog antisessista, antifascista, e antirazzista, è anche un blog antispecista. E quindi, diciamo, femminismoassud.noblogs.org, e poi ovviamente il sito dal quale è stato preso lo scritto, che è quello di Sdrammaturgo, quindi sdrammaturgo.wordpress.com. E allora concludiamo dicendo così, vuol dire qualcosa? Ovviamente un saluto a tutti coloro e tutte coloro che sono... Volevo dire un'altra cosa. Prima dei saluti. Volevamo lanciare la massima della giornata, che è quella che la posizione preferita delle pecore è l'umano. Con questo veramente il trash è arrivato. È ora di chiudere. Ok, un saluto a tutti e a tutte, e soprattutto a chi è negato della propria libertà personale, siano essi animali, umani o non umani. Bella. A lunedì. Ciao, ciao. Ciao. Scomposto dove gli assassini